Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno da Elisabetta Fiorito per questo meglio di Summertime, che ripropone il sabato alle 16.30 e la domenica alle 8.30 le interviste andate in onda questa settimana. Iniziamo da Caparezza, il cantautore pugliese ha suonato lunedì a Foggia ma è in tournée in tutta Italia. Il sogno è quello di poter coltivare i dubbi, che credo sia il principio di ogni eresia, quello di non accettare il dogma e quindi di mantenere una forma di criticità verso le dottrine esterne, ma anche quella verso se stessi, che è la prima e più genuina forma di eresia. Senti Caparezza, tu stasera sei a Foggia e tu sei molto legato alla tua terra, alla Puglia, no? Sì. Che cosa pensi di quello che sta succedendo all'Ilva di Taranto? So che è una domanda politica, però magari da pugliese ci puoi dare un'interpretazione. No, certamente io l'interpretazione la do, anche perché molto spesso ci sono passato dall'Ilva e diciamo che non è un bellissimo spettacolo. Ti assicuro che da quelle zone sembra un po' di entrare a Silent Hill, che era questo videogioco un po' che rappresentava una specie di città fantasma, e ci sono alberi palesemente secchi con polveri rosse sparso ovunque, un odore non molto diciamo che non è che si respiri profumo da quelle zone. Questo mi ha sempre indotto a pensare quello che pensano in realtà tutti, che da anni lì si consuma un ricatto che ha come piatti della bilancia da una parte i posti di lavoro, dall'altra l'inquinamento in barba a tutte le regole. È ovvio che l'ideale sarebbe bonificare la zona e mantenere i posti di lavoro, ma qui ci deve essere la possibilità di volerlo fare veramente, ecco, di non ritenere che questo tipo di operazione sia fallimentare e faccia chiudere l'azienda. Quindi questo è l'unico modo, insomma, per salvare capre e cavoli, però insomma è veramente una questione molto difficile per chi poi come noi abita in una regione sempre sbandierata per il sole, il mare e il vento. Sì, appunto, è per il bellissimo mare, no? Che... Sì. E quindi tu praticamente dici c'è un ricatto poi alla fine dell'azienda, quindi devono risolvere questa questione, altrimenti si rischia la salute, no? Sì, quindi è molto chiaro. Sono altissimi, non si tratta di rischi paventati così, sono praticamente rischi concreti. Se tu pensi che da anni ormai nascono movimenti che studiano l'incidenza tumorale di tutte le sostanze tossiche che vengono fuori dall'Ilva. Se tu pensi per esempio che la canzone che mi ha più creato problemi è proprio Viene a ballare in Puglia. Infatti ti stavo chiedendo, appunto, nella tua canzone Viene a ballare in Puglia che succede? Io a un certo punto mi hanno chiamato, ho detto guarda che sei in prima pagina sul giornale, ti stanno attaccando qui e là, assessori... perché stavo ricevendo un premio da Legambiente per il pezzo, si erano opposti tutti, si erano opposti al mio concerto, si tratta proprio di istituzioni, ecco, diciamo così. Quanto è difficile fare il rapper e denunciare in Italia? Secondo me non è tanto difficile, è difficile quando magari riesci a trovare un modo per farlo. Io credo di aver capito in questi anni che dire le cose così come sono non aiuta a propagandare o a propagare quello che è il tuo pensiero sulle cose, ma usare l'artificio della metafora, comunque renderle accettabili. Faccio un esempio concreto: Viene a ballare in Puglia, un pezzo di denuncia, ma anche un pezzo molto accattivante dal punto di vista musicale, soprattutto il modo in cui io porto avanti questa denuncia non è quello retorico delle canzoni di lotta, ma è quello fantasioso, non perché parli di argomenti di fantasia, ma perché utilizza gli artifici della poesia, quindi la metafora, le rime scritte in una certa maniera, e quindi magari passa di più perché ci si ritrova, o forse può capitare che la musica sia addirittura più potente del testo e che faccia da cavallo di Troia per il testo, per cui delle persone si ritrovano a fischiettarlo, ad amare Viene a ballare in Puglia, magari la prima, la seconda, la terza volta non ascoltano quello che dico, poi cominciano a concentrarsi e il senso del testo si propaga. Aspetta un attimo, perché ci hai provocato, come si dice a Roma, no? Ci hai provocato e quindi noi un pezzettino lo dobbiamo far sentire. Aspettaci. Va bene, okay. Qui. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Senti, allora, invece, Goodbye Malinconia, Il Sogno Eretico, è un disco un pochino più concentrato sull'interiorità, invece? Oppure ritornerai magari facendo un bellissimo rap su questa vicenda dell'Ilva? Già ci stai pensando? No, io in realtà la vicenda dell'Ilva l'ho già affrontata in qualche rima su Fiera Ballare in Puglia, poi vedremo cosa accadrà di concreto da qui a fra qualche anno. Per quanto riguarda Goodbye Malinconia, è un altro pezzo che parla di un problema concreto che è stato appunto mitigato dalla metafora. Per quanto invece riguarda quello che avverrà dopo tutto questo, cioè dopo i pezzi di denuncia, i pezzi sociali, quelli che mi vengono solitamente attribuiti e che hanno secondo me contribuito comunque ad alimentare la mia... la percezione che la gente ha di me, credo che gli ascoltatori hanno di me, non so quanta vita in questa direzione avranno, perché temo dopo 5 anni di aver espresso il mio pensiero sociale e politico in maniera molto forte, quindi non ho bisogno di ribadirlo, devo trovare una quadra per cercare di non annoiarmi, ecco, diciamo così. Sì, no, perché l'Italia di spunti te ne dà tantissimi, la casta, sì, cioè sì, l'Italia potresti continuare così per altri 20 anni, no? mentre magari, ecco, come dici tu, sei tu che ti devi divertire. Quanto conta, per esempio, l'influenza dei rapper afroamericani? È relativa, è davvero relativa, perché io non ascolto solo il rap, contrariamente a quanto qualcuno pensi. Io sono veramente onnivoro musicalmente parlando e anche molto disordinato, caotico, ecco, questa è la parola giusta. Riesco ad ascoltare nella stessa giornata i Public Enemy, gli Anthrax e Raffaella Carrà. Non ho nessun ordine nelle cose, quindi diciamo che l'influenza del rap afroamericano nel mio caso è quasi puramente estetica, nel senso di soluzione di scrittura relativa appunto alla scansione ritmica delle parole, della poesia, anche se paradossalmente, continuando a parlare di temi sociali, sono probabilmente molto più vicino ai primordi del rap americano di tanti altri rapper italiani che magari si dichiarano più vicini a quella cultura, ma sono estremamente distanti per contenuti. L'Umbria Folk Festival di Orvieto presenta il meglio dei cantanti nazionali ed internazionali, ospiti anche Goran Bregovic, Beppe Barra e il giovane cantautore romano Alessandro Mannarino. Ci sono delle storie che raccontate in dialetto e sono più credibili, perché il dialetto è una lingua, cioè appunto un linguaggio legato alle emozioni meno pensate, quello che si impara prima ancora dell'italiano, prima ancora di andare a scuola. È quello legato ai suoni più, diciamo, ancestrali, quelli dell'infanzia. Di solito quando si litiga con una ragazza o ci si appassiona, oppure quando si parla con un amico di cose profonde, si parla in dialetto. Senti Alessandro, allora tu hai iniziato girando per il Rione Monti, no? Ad esibirti, sì. Quindi sei molto legato a Roma, alla tua città, che poi è anche la mia. In che cosa aiuta essere romani, in che cosa invece è uno svantaggio? Quello che ho trovato io della mia romanità come appunto un appiglio, un aiuto è stato l'autoironia. L'autoironia è un'arma, quando si va un po' a fondo, oppure insomma tutto diventa più difficile, ci si potrebbe piangere addosso, invece è proprio del romano, insomma, riderci sopra, ridere su se stessi, no? Anche con un po' di cinismo. E invece quello che diciamo il limite è un po' il campanilismo, il rimanere chiusi in se stessi, anche un po' di razzismo nei confronti degli altri, però il razzismo di chi non esce di casa e quindi cioè di chi giudica per non essere giudicato. Senti, quanti album sono usciti tuoi e quante ore dedichi, per esempio, alla scrittura di una canzone al giorno? Cioè, come si svolge la tua giornata? Tanto per far capire. C'è dei periodi in cui la giornata non si svolge proprio. Ah, ecco. E poi quando mi metto a lavorare, cioè, sono più propenso alle grandi, cioè alle maratone e poi ai riposi, no? Quindi quando c'è da fare un lavoro, quando c'è da fare un allestimento per uno spettacolo, dormo 3 ore a notte. Quando mi metto a scrivere il disco, dormo poco e scrivo tutto il giorno e non esco di casa. Poi per il resto cerco di vivere senza pensare, insomma, al lavoro, ma assorbendo, insomma, no? Mangiando per prendere energie. Allora Alessandro, per esempio, sì, c'è Antonella Migliaccio, che è la mia regista, che mi ha detto: ma tu non capisci, Betta, per la nostra generazione Alessandro Mannarino è un punto di riferimento. Ti senti un punto di riferimento? Ma no, ancora no. C'è un pensiero dietro quello che scrivo, dietro le storie, no? Sulla società e sull'uomo, sull'umanità, sul momento storico che viviamo. Questo però lo veicolo con delle storie, quindi diventa più piacevole e più facile anche esprimerlo. Sono a volte emozionato dal pubblico, dalle persone che mi seguono, però questo mi dà una spinta ancora a fare cose ancora più belle, insomma, come una responsabilità, una voglia di prendere l'energia positiva che arriva da questo, insomma. Summertime. All'Arena di Verona, la Tosca di Giacomo Puccini, direttore d'orchestra Marco Armiliato, che quest'anno moltiplica gli sforzi anche con l'aiuto di Giuseppe Verdi. Tosca, diciamo che è definita l'opera perfetta in tutte le situazioni, in tutti i momenti, in tutti i teatri, in tutti gli spazi aperti, perché è veramente un'opera che è entusiasmante per la sua scrittura pucciniana nel vero senso della parola, perché era proprio in quest'opera è compresa tutta la passione, il dramma e l'amore che nell'opera ci si può aspettare. Senz'altro l'ambientazione dell'Arena di Verona aiuta molto a esasperare tutte queste forti emozioni che si provano durante questa splendida opera. Per lei la può definire il capolavoro di Puccini, oppure non è possibile paragonarla alla Butterfly, alla Bohème, perché sono tutte bellissime, quindi... Esatto, secondo me tutte le opere di Puccini sono capolavori nella loro forma. Io adoro il compositore di Torre del Lago, perché trovo che abbia dato una carica emotiva e una forza di passioni e di amore, di gioia, di dolore in tutte le opere che ha composto, dalla Bohème, la Tosca, la Butterfly, la Manon Lescaut, e quindi nelle opere pucciniane si trovano sempre spunti meravigliosi di emozioni. Ecco, si può definire Puccini come l'ultimo grande scrittore di opera? Ma diciamo che si può definire come un grande compositore d'opera. Dire che l'ultimo grande è un po' riduttivo, perché comunque sia, il mondo va avanti, ci sono altri compositori altrettanto bravi, speriamo nel futuro che ci possano essere altri Puccini. Senz'altro è stato un grandioso compositore da valutare e da rimarcare sempre nella storia. Sì, ma dopo di lui chi c'è stato? Ecco, questo io glielo chiedo proprio perché poi alla fine tutti quanti dicono: ah no, perché mi sembra, magari c'è stato Bernstein con West Side Story, però già è un musical, sì, per dire. È musical e poi non è italiano. No, oppure c'è stato sicuramente Weber con Jesus Christ Superstar, però la potremmo, esatto, definire una rock opera. Poi esatto, non è proprio un'opera. Si entra un po' in un discorso molto complesso. Diciamo che dei compositori riconosciuti, ok, si può definire l'ultimo grande romantico e anche il primo verista, forse. Sì, perché lui poi ha queste ambientazioni, no? A parte, esatto, Tosca, che c'è, cioè, la fanciulla del West, esatto. Madama Butterfly, insomma, un po', sì, all'avanguardia. Sono opere molto descrittive, che veramente sottolineano le ambientazioni e il modo di vita, il modo di pensiero di tanta gente. Quindi ognuno ci si riconosce un po' nelle opere di Puccini. Senta maestro, che cosa vuol dire allora, suonare all'Arena di Verona, questo luogo mitico della lirica, no? Dove viene rappresentato, dove vengono rappresentate tutte le opere, ma soprattutto dove si dice che l'Aida è proprio l'opera, no? Maestra del... Arenana per eccellenza. Sì, secondo me fare musica in arena è un'esperienza veramente molto speciale, perché comunque sia, anche senza fare musica, entrare nell'Arena di Verona è un po' come entrare quando si entra al Colosseo, insomma, in questi spazi dove sono pieni di storia, pieni di ogni pietra ha la sua vita. E quindi vedere una grande macchina funzionare e mettere insieme un allestimento d'opera e radunare 15.000 persone ogni sera è un evento veramente grandioso. L'emozione è tanta, sempre. Noi del resto viviamo di questo tipo di emozioni e speriamo di poterle trasmettere sempre al pubblico. Ma non c'è una dispersione del suono in arena? Cioè, lei come direttore d'orchestra? Naturalmente, non è la stessa cosa suonare in teatro e al chiuso, è completamente un altro tipo di atmosfera, però essere in un posto così magico crea altro tipo di emozioni e un altro tipo di sensazioni che non sono riproponibili in un teatro al chiuso, che comunque rendono comunque in un certo modo molto forte l'impatto atmosferico e momentaneo, vedere tutte queste candeline sulle gradinate. Senz'altro magari ne va a discapito il suono e l'intimità dell'esecuzione, però si acquista in altre cose e si trovano comunque delle bellissime emozioni in altri momenti. Ecco, per esempio, noi ci chiediamo, ci saranno dei microfoni sparsi in tutto quanto il palcoscenico affinché tutto venga, cioè le voci si possano sentire fino agli spalti più alti? Allora, diciamo che l'arena è stata concepita, è stata utilizzata già nella storia perché era già un anfiteatro molto adatto all'acustica, quindi non è che siamo proprio dispersi nel vuoto. L'arena crea già di per sé, per costruzione storica, un certo tipo di acustica che può piacere o no, ma è quella che usavano gli antichi per gli spettacoli. E quindi noi abbiamo utilizzato nei tempi moderni un piccolo sostegno, quello che è chiamato sostegno, diciamo, tecnico, per poter aiutare lo spettatore a essere un pochino più partecipe allo spettacolo. Però devo dire che non è una vera e propria amplificazione, è solamente un aiuto a magari chi è seduto più lontano a partecipare meglio allo spettacolo. Allora, stasera l'allestimento è quello classico con i costumi impero, con Floria Tosca, con Assolutamente questo. sì, e anzi devo dire che veramente la regia di Ugo De Ana è uno spettacolo, presenta uno spettacolo veramente spettacolare. Veramente splendido per tante ragioni. Io devo dire che alla prima volta, quando durante le prove abbiamo eseguito il Te Deum, che è il grande passaggio del finale primo atto, sono rimasto veramente molto toccato, molto emozionato, perché devo dire che è molto spettacolare, una cosa veramente da vedere. Allora, ringraziamo il direttore d'orchestra di questa sera all'Arena di Verona, Marco Armiliato, dove andrà in scena La Tosca. Ricordiamo appunto la rassegna estiva di questo grandissimo teatro all'aperto. Prossimi lavori, maestro? Beh, il giorno dopo, subito dopo, domani avrò l'Aida, no, mi scusi, domenica un'altra recita di Aida per l'Arena di Verona, poi subito dopo ricomincia la stagione al chiuso, dove io sarò subito a Berlino per un concerto, poi a Parigi per la fila di reggimento e via via altre cose, Metropolitan più avanti. Allora, l'Aida, chiaramente ci sarà poi questo finale del secondo atto lì, che è quello che tutti aspettano con la Ah beh, famosa certo, marcia certo, la marcia trionfale. trionfale che diciamo che è lo spettacolo per antonomasia dell'Arena di Verona, sì. A Napoli, nella rassegna Ridere, Festival del Teatro Comico e Cabaret, Sesso senza cuore, lo spettacolo di Rosalia Porcaro con i cavalli di battaglia della comica napoletana Veronica e Natascia. Ci sarà il mio spettacolo, oltre al donatore di lavoro, un po' tutti i personaggi, da Veronica perché ho sentito le battute, girotonda, facitela. In realtà Veronica è sempre un personaggio che è al passo con i tempi, purtroppo, perché i problemi del lavoro stanno peggiorando anziché migliorando. E quindi, insomma, nello spettacolo ci sono un po' tutti i personaggi che ho fatto, tutti i personaggi che le persone ricordano, soprattutto Veronica, la suocera di Veronica, Natascia, Assundam, l'araba e tanti altri. Qual è il personaggio alla cui sono più legata? Affezionata. Qual è il personaggio a cui sono più affezionata? In realtà non c'è un personaggio a cui sono più affezionata, cioè di volta in volta un personaggio che mi diverte di più fare, e in genere è quello che ripeto meno volte, perché se ho fatto delle trasmissioni dove mi hanno chiesto di fare Veronica, Veronica sarà un personaggio che non mi va di fare e quindi preferisco fare Natascia oppure Rosalind, che è una cosa che pratico meno, per cui mi dà almeno un modo per divertirmi di più. Senti, ma Sesso senza cuore, no? Che è diventata praticamente un mito questa. Come ti venne in mente? No, perché... Allora, Sesso senza cuore mi è venuto in mente ascoltando la canzone di Gigi D'Alessio. Dove c'era troppo cuore? Mai che il nostro non è amore, sesso senza cuore. Ascoltando questa frase, che poi avevo chiaramente già sentito, che è un modo di dire, mi è venuto in mente di fare una canzone che potesse raccontare proprio di una donna che non riusciva a uscire da questa cosa della storia clandestina, della storia che dà più una libertà, diciamo così, un po' più effimera, più leggera, e non, però magari lei, il personaggio Natascia, in questione ci crede profondamente e soffre al fatto che l'altra persona non sia coinvolta allo stesso modo. Senti, ma quanto l'ha colpito nel segno? Sì, perché... era veramente qualcosa che ha ricorrenti, quindi. Sì, no, poi secondo me era così ironico che bene o male era anche un po', no, uno sfottò appunto a Gigi D'Alessio, magari dove l'amore era un po' troppo in quelle, trasudava nelle canzoni. Sì, poi proprio l'espressione, insomma, Sesso senza cuore, che mi aveva colpito particolarmente. Comunque, fermo restando che devo dire, a me piace Gigi D'Alessio, in particolare mi piace la sua voce, e quindi, sai, le cose che ripeti in qualche modo sono anche quelle che ti attirano. Quanto conta essere napoletana nella tua comicità? Tutto? Tantissimo, sì, tantissimo. Non credo che nascendo in un altro posto avrei fatto le stesse cose, lo stesso lavoro. Sicuramente penso che sia la maggior parte, insomma l'80% di quello che faccio, che mi viene in mente per il mondo dove sono vissuta. Ma secondo te la comicità è napoletana e romana per la maggior parte in questo paese? Ma no, guarda, no, non credo. Penso che sia anche toscana, anche di tanti altri luoghi. A me riesce difficile perché pensare un altro luogo, però voglio dire, perché tante cose sono proprio un aspetto dei napoletani, al di là del dialetto. Per questo dico che mi sembra difficile pensarlo in un altro posto. E anche per questo meglio di Summertime è tutto. Ricordiamo l'appuntamento con Summertime lunedì alle 16. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Un buon weekend da Elisabetta Fiorito.